Nessuno riconosce che se le donne non hanno compiuto grandi azioni, fondato imperi, conquistato terre e ricchezze o creato capolavori mondiali, è perché sono state impegnate a partorire, allevare, lavare e insegnare agli uomini che lo hanno fatto. Sono parole di Virginia Woolf che sembrano riprendere quello che è appena un lieve scambio di battute in L'abbazia di Northanger, battute che però, come tipico dell'autrice Jane Austen, denunciano in modo ironico e lieve una situazione di ingiustizia e sudditanza dell'universo femminile rispetto a quello maschile. La giovane protagonista di questo breve romanzo pubblicato postumo, e a nostro avviso il migliore di Jane Austen per lucidità e humor, è una normale rappresentante della media borghesia, piuttosto ignorante, come era la prassi per le fanciulle in quei tempi, che però, grazie al semplice buonsenso, nonostante la scarsa educazione, tra virgolette, ricevuta, scova e mette in luce le pecche della vita frivola e vuota nella sua classe sociale. Non riesce a interessarmi la storia vera, solenne, dice Catherine, la protagonista. E a voi? Oh sì, a me la storia piace moltissimo. Vorrei che piacesse anche a me, ribatte Catherine. Ne leggo un po' per dovere, ma non ci trovo niente che non mi annoi o non mi stanchi. In ogni pagina papi e re che litigano, guerre, pestilenze. Gli uomini sono tutti buoni a nulla e di donne non si parla o quasi. È molto noiosa, poiché buona parte deve essere invenzione. I discorsi che vengono attribuiti agli eroi, i loro pensieri e piani, la maggior parte di tutto ciò deve essere frutto dell'invenzione. In questo suo lavoro Jane avverte che le donne usano il romanzo per fare denuncia sociale e che non c'è nulla di disprezzabile in ciò. Lo stereotipo culturale era, saggistica per gli uomini, narrativa per le donne, dove la narrativa era considerata un genere inferiore, roba da donne, appunto, tra virgolette. Mentre le lodi vanno al compilatore del novecentesimo compendio di storie dell'Inghilterra, dice ancora Catherine, o dell'ennesima antologia di poeti tutti maschi, all'autrice del romanzo rimangono solo lazzi e disprezzo. Con queste parole, Jane diventa una professionista della penna che difende il suo lavoro. Secondo Jane, il romanzo non è un'opera minore, bensì, parole sue, un'opera in cui si dispiegano le più alte doti dell'intelletto, nel linguaggio più squisito, esponendo la più profonda conoscenza della natura umana con spirito e humor. Jane Austen, inoltre, incoraggia la solidarietà tra donne e le incita a leggere i romanzi scritti dalle donne. Ahimè, scrive in L'abbazia di Northanger, se l'eroina di un romanzo non offre il proprio appoggio all'eroina di un altro romanzo, da chi potrà poi aspettarsi protezione e stima? Non abbandoniamoci, siamo un unico corpo ferito. In questo delizioso e argutissimo romanzo, Jane Austen cita anche Anne Radcliffe. A quel tempo affermata autrice di romanzi gotici secondo lo stile in voga all'epoca, filone che proprio Jane interruppe, riprendendo e portando a successo la grossa novità nel lavoro di scrittura femminile, ovvero quello stile essenziale, quasi giornalistico, che aveva avuto una feconda anticipatrice nella più piccola delle sorelle Bronte, la semisconosciuta Anne Bronte, e nei suoi unici due romanzi Agnes Grey e La signora di Wildfell Hall. Tornando ad Anne Radcliffe e al romanzo gotico, Jane Austen apparentemente sembra irridere all'opera gotica, poiché la protagonista dell'Abbazia di Northanger, accanita lettrice di romanzi gotici, appunto, si lascia suggestionare fino a convincersi che la dimora dove era ospite fosse stata teatro di un assassinio. Poi, però, Jane Austen riconosce ad Anne Radcliffe il giusto tributo alla sua innovazione letteraria, e cioè il fatto apparentemente sovrannaturale ha in effetti una spiegazione razionale. Anne Radcliffe introdusse il finale che spiega razionalmente i fatti apparentemente sovrannaturali un secolo prima del tanto declamato Conan Doyle nel suo Sherlock Holmes. Ancora una volta, una innovazione femminina che non è passata nei libri di storia. La scuola delle donne è lieta di proporre la lettura di quella che è probabilmente la migliore opera di Jane Austen, e anche la meno conosciuta, data la chiara denuncia alla letteratura androcentrica a cui la critica, anch'essa androcentrica, ha concesso la minor visibilità possibile. Crescere Edizioni 2015. Da Devana, buon ascolto.